avete un'urna e vi preghiamo di utilizzarli affinché i voti siano tantissimi. Tra l'altro, domani, sempre da questo palco, noi ascolteremo, lo abbiamo ricordato ma ci piace ricordarlo ancora, i messaggi degli scrittori finalisti ai loro colleghi. Loro colleghi, scrittori, poeti e blogger che si trovano in carcere per aver espresso il proprio dissenso a un regime. Oggi è la giornata mondiale per i diritti umani ed è giusto proprio in questa giornata ricordarlo. Votate e immaginate. Allora, immaginate tre artiste, un'italiana, una francese e un'iraniana, che si incontrano per raccontare una regina di cui poco si sa. È la prima e credo unica donna faraone dell'antico Egitto, è Hatshepsut, la figlia del sole, e la vedete qui in questo magnifico libro uscito per l'Asino d'Oro e che è stata raccontata dalle nostre tre ospiti, che sono Alessandra Grimaldi, già autrice, abbiamo parlato con lei 2 anni fa se non sbaglio per Gilgamesh, l'epopea del re di Uruk, Lori Eli e Farug Raihani. Vi do il benvenuto e anche il pubblico di Più Libri Più Liberi qui al Caffè Letterario vi dà il benvenuto. Ora però c'è un altro ospite che vado a presentarvi e come avrete avuto modo di sentire e di vedere fra poco la bellezza e l'intelligenza di questo libro, avrete avuto modo nei giorni scorsi di ascoltare i dati Nielsen, l'abbiamo raccontati nella prima giornata di Più Libri Più Liberi, quei dati che ci parlavano di una flessione a sorpresa che riguarda proprio il mercato per bambini e ragazzi, che è sempre stato il segmento vincente dell'editoria. Allora, incuriositi, abbiamo chiesto lumi a colui che ci può illuminare su questo, Giovanni Pereson, dategli il benvenuto, è responsabile ufficio studi AIE e da qualche mese anche responsabile del settore professionali della Fiera del Libro di Milano, Tempo di Libri. Allora io comincio proprio con lei, Giovanni Pereson. Che cosa succede all'editoria per ragazzi? Una flessione piccola, seria, preoccupante, semplicemente è stato raggiunto un culmine e più di là non si può andare? Come vede questi dati? Come li legge? Semplicemente come i dati parziali del 2016. 2016 che nel settore ragazzi, per esempio, non ha avuto il caso Schiappa, che avrebbe sicuramente cambiato i risultati complessivi, tant'è che abbiamo un timido, è vero che per la prima volta, un timido meno zero qualcosa nelle quantità vendute, però abbiamo comunque un segno più nel valore di vendita. Non ne farei un ragionamento centrale per poter dire che il mercato ragazzi ha iniziato la parabola discendente, come talvolta poi la comunicazione finisce per sintetizzare il fenomeno. Lo prenderei semplicemente come un dato che fotografa la situazione in questo momento. Anche perché poi per chi non è del settore diventa complicato orientarsi fra i segni meno e i segni più, perché in un altro dato che è uscito in questi giorni di Fiera della Piccola e Media Editoria noi abbiamo visto che i libri per ragazzi sono quelli più esportati all'estero. Lei lo conferma? Sì, sì, lo confermo assolutamente. La crescita dell'export e della vendita di diritti degli editori italiani all'estero è in crescita, e non è in crescita soltanto da quest'anno, ma è un dato strutturale del settore. Gli editori italiani per ragazzi, e non solo per ragazzi, sono diventati più bravi, diciamo così, cioè hanno acquisito maggiori competenze nel selezionare e proporre i titoli da vendere ai loro colleghi stranieri, nel creare relazioni professionali con i loro colleghi stranieri. Si è creato un parco di autori, e questo libro di Hatshepsut in qualche misura lo conferma, si è creato un tessuto di illustratori, di grafici, di designer, che fanno delle copertine, fanno delle illustrazioni che interessano e comunicano, voglio dire, quella qualità che contraddistingue molte delle attività del nostro paese, che sostanzialmente poi si traducono in quelle cose che magari vengono più comunicate, che si chiamano designer, architettura, lifestyle, moda e via dicendo. Però questi fenomeni rientrano in questa creazione di eccellenze che riguardano anche l'editoria. Abbiamo altre cose da chiederle, ma io prima vorrei sentire Alessandra Grimaldi, che appunto già con il libro su Gilgamesh dimostra questa attenzione all'epica, che questa volta però si va a cimentare con una delle pagine nascoste della storia, perché effettivamente la storia della unica donna, l'unica regina dell'antico Egitto, che afferma il coraggio di sfidare le convenzioni, di affermare la propria discendenza divina, e che viene però, voi lo raccontate nelle ultime pagine, dimenticata per una sorta di damnatio memoriae voluta dal figliastro. E quindi è anche il vostro, non solo la narrazione di una pagina storica e di una bellissima storia ai lettori più giovani, ma anche un rendere giustizia in un certo senso a una figura dimenticata, come ahimè spesso accade alle figure femminili peraltro. Sì, l'Asino d'Oro Edizioni dopo 3 anni pubblica questo libro illustrato della prima donna faraone, Hatshepsut. Ci troviamo nel nuovo regno della diciottesima dinastia, ben 3500 anni fa. La scelta è pari a quella di Gilgamesh, voler riportare in auge figure pre-cristiane, pre-logos occidentale, che ci fanno vedere come si vivesse a quei tempi con un'altra mentalità, un'altra apertura anche mentale. Noi abbiamo attinto a moltissime fonti, sia personali, per chi il Deir el-Bahari lo ha visto effettivamente, che è il tempio che poi lei fece costruire da un architetto geniale, e sia fonti storiche, ce ne sono tante. Non è il nostro un discorso diciamo femminista, ma il voler ribadire un personaggio caratteriale che caratterialmente ha dato fulgore, ha contribuito a darne all'antico Egitto in questo periodo. Quindi accanto a me ci sono le due illustratrici. Ci sono le due illustratrici con cui poi parleremo, però la curiosità ancora, poi sarà bellissimo farci raccontare come hanno lavorato in modo filologico e creativo insieme, però ecco, la curiosità è capire anzitutto su come avete dalle fonti costruito poi una narrazione. In poche parole, come fa Hatshepsut, non vogliamo fare un discorso femminista, però rendere giustizia a una figura femminile che si confronta con il potere, tra l'altro. Come arriva a prenderlo quel potere? Qui c'è una storia che viene ricostruita. Lei arriva con questa leggenda della sua nascita, una leggenda divina, la sponsorizza effettivamente. La dinastia è quella dei faraoni, ma lei si ribella ad una tradizione. C'è un momento di correggenza insieme al figliastro, morto il marito, Tutmose II. Lei, forte di questa leggenda, con le capacità che intanto le erano state anche riconosciute dai dignitari del faraone, lei si erge appunto a donna faraone, scavalca tutta una tradizione, è consapevole di poterlo fare, c'è chi la sostiene e lo diventa per ben 20 anni. È alla reggenza dell'Alto e Basso Egitto per più di 20 anni. Che cosa resta di lei? Lei ha fatto cenno appunto a un monumento. Resta questo tempio, la damnatio memoriae non è servita certamente a cancellare il suo nome, perché si dice di lei che fosse una grafomane, ma lo erano un po' tutti i faraoni di quell'epoca. Ha scritto il suo nome dappertutto, si è fatta raffigurare, è stata raffigurata, e di lei resta appunto questo fortissimo esempio di prima donna che si ribella fortemente ad una tradizione dinastica di tanti anni. E la bellezza anche delle opere architettoniche che vanno appunto da Karnak a Luxor fino appunto a questo magnifico tempio del Djeser-Djeseru sono ancora visibili ai nostri occhi. Si è fatta raffigurare molte volte. Io vorrei sentire da Farouk Raihani, per cominciare, come avete lavorato, per chi guarderà il libro vedrà che c'è un lavoro di illustrazione molto accurato, anche molto delicato. Ne faccio vedere al pubblico qui in sala al Caffè Letterario soltanto un esempio, quindi si rispettano credo quelli che erano i dettami originali, però si reinventa. Quindi come avete lavorato e poi perché siete in due? Praticamente abbiamo lavorato partendo dai colori, comunque tanta ricerca sulle immagini degli egiziani, anche arte egizia che già è molto stabile e forte già nella sua epoca. Poi di là, dopo le ricerche sulle immagini, abbiamo partito con dei disegni. In questa volta però non eravamo vicino, eravamo a distante, io a Teheran e lui a Londra, quindi c'è stato un scambio anche delle immagini tramite delle scan o via altro. E poi sono stati realizzati da Lori Elie tramite di un software per finalizzare il libro insieme. Lori Elie, come ha trovato queste immagini su cui appunto ha lavorato? Perché sono veramente, alcune sono semplicemente dei piccoli simboli, sono dei motivi floreali. Sono degli scarabei, naturalmente, sono piccoli tocchi, e naturalmente c'è anche il volto, quello che noi presumiamo essere il volto della figlia del sole di Hatshepsut. Sì, funziona. Parli pure. Sì, mi sentite? Sì. Ok, allora, innanzitutto questo è un libro illustrato, non soltanto per i ragazzi, anzi, nasce come un libro per adulti, e questo è importante dirlo, che anche fuori dall'Italia il libro illustrato è interessato anche, non ha età, non ha lingua, e quindi questo è interessante dirlo. Noi per fare questo libro c'è stato dietro circa un anno di ricerca, e ci siamo ispirate a bassilievi, statue che esistono veramente, quindi chi ha la fortuna di andare in Egitto, ma ci sono anche tantissimi reperti nei musei italiani, francesi e anche a Londra, per ispirarsi. Quindi la maggior parte di questi disegni sono, diciamo, una stilizzazione di quello che si può trovare in Egitto. Allora, Giovanni Peres, Lori Elie ha detto una frase quando ha detto: questo non è il libro, un libro solo per bambini, ma è un libro anche per gli adulti, e sono i famigeratissimi libri ibridi, quelli che hanno, se ne è cominciato a parlare, se non ricordo male, ai tempi di Harry Potter, quelli che possono essere letti da più generazioni, anche se inizialmente la destinazione è per una fascia per ragazzi. Dal suo punto di vista, stanno aumentando questi tipi di libri o no? No, questi libri ci sono sempre stati. Se devo, come dire, rimanere in quest'ambito, It di Stephen King, pensato per come horror per il pubblico adulto, viene sostanzialmente adottato nelle sue non so quante 600-800 pagine, anche mille dai ragazzi, quindi sostanzialmente credo che sia sostanzialmente un fenomeno che c'è sempre stato nell'editoria e nella lettura da parte del pubblico. Forse oggi questo sì, l'elemento nuovo è diventato un fenomeno molto più evidente, lo è diventato perché sono cambiate le stagioni della nostra vita, e sono cambiate le stagioni anche dell'infanzia, e quindi si sono progressivamente accorciate, quindi si entra all'interno di questo tipo di narrativa ad età progressivamente decrescenti. Non sono io che l'ho scoperto e che lo dico, ma già Roberto Denti lo aveva osservato nella libreria per ragazzi di Milano, sicuramente perché ci sono una serie di tecnologie, che la partecipazione ai social, il fatto che bambini e ragazzi hanno poi il telefonino su cui si scambiano indicazioni, informazioni anche di tutt'altro genere, però anche sui libri che in qualche modo stanno leggendo, perché le biblioteche hanno rotto quella separazione rigida che una volta c'era tra libro per bambini e libro per adulti, e anche perché poi le stesse librerie stanno intraprendendo, quanto già non lo hanno fatto, evidentissimo nel settore del fantasy, questa separazione. Allora, a questo punto approfitto di lei, Giovanni Peresson, per chiedere una cosa che mi sembra forse la questione. Noi molto spesso leggiamo articoli, interventi, studi anche contrastanti che riguardano il rapporto fra bambini e nuove tecnologie, anche bambini molto piccoli. Allora, a suo parere, l'editoria, intesa come cartacea in questo caso, deve venire incontro anche a quel approccio multimediale e tecnologico che ormai è un dato di fatto di piccoli o piccolissimi, o mantenere un'unicità? Allora, io comincerei a eliminare la distinzione tra editoria cartacea e editoria digitale. E questo nel è senso un punto. Che mi sembra appunto un punto, come dire, basico di partenza, nel senso che il libro, ma lo dimostrano le illustratrici che sono qui a parlare con noi, una sta in una parte del mondo, l'altra sta dall'altra parte, stavano lavorando insieme. Quindi quando parliamo di digitale, il digitale forse l'ebook, forse sono le app, forse sono le piattaforme tecnologiche, però sicuramente la prima cosa che il digitale ha fatto è stata quella di cambiare i processi produttivi e i processi creativi. Alessandra Grimaldi, questo... allora no, prego, finisca. E quindi questo, voglio dire, mi sembra il punto nodale, il punto che secondo me, voglio dire, proietta nel futuro il digitale. Illustratori, scrittori, editori devono e dovranno nei prossimi anni iniziare a pensare all'attività creativa in un modo che contempla il digitale come una delle N possibilità che si hanno. La carta è una, semplicemente una delle possibili piattaforme su cui poi il mio lavoro verrà distribuito e verrà diffuso. Alessandra Grimaldi, io l'ultima battuta davvero, perché l'ho presentata appunto parlando di una sua attenzione da autrice all'epica, non solo con Gilgamesh, ma adesso appunto con la vicenda di Hatshepsut. Sì. E lei concorda su questo e non c'è.